non ti verrà morire, non te vendicare la nega senza morire, non ti puoi dispendere, non ti verrà morire, non te vendicare la nega senza morire, non ti puoi dispendere, la morte senza morire, non te vendicare la nega senza morire. Thank you.